se Vincent Datore Stanzetta Produzione Non beat Non ti prendere a male nell'hip hop, siamo al top. Il tuo flow risulta un flop, ti dovresti ritirare. Ci avete rotto il cazzo voi e i vostri ideali. Quando rappo shut up sotto i piedi con un paio d'ali. Faccio questo e me ne sbatto, vi guardo dall'alto, predestinato, condannato. Lo decide a qualcun altro, lo faccio per colmare i vuoti che sento nell'anima. Appare Satana, Fatima, il mio momento adesso. Solo in mezzo a questa gente per amica, una penna e qualche rima impertinente. Non mi fermo finché il suono ti crepa lo schermo. Scrivo rime radioattive, Chernobyl sul mio quaderno. Z-A-T-O-R-E, questo è il mio nome. Rappo in italiano come pure in dialetto. In entrambi i modi tiro fuori il mio aspetto. Talento nato dalle passioni, ascoltando musica che l'anima mi ha cacciato fuori. In America l'hip hop mi hanno detto che fa brutto. Dopo gli Hip Hop Awards in Italia siamo in lutto. In Italia il rap è sottovalutato. Artisti come noi che l'hanno sostenuto. Poche chance per noi giovani sconosciuti. Nemmeno dalle critiche siamo stati abbattuti. Sono stanco di quei rompicoglioni sostenuti dalle checche, si credono i migliori. Io sono uno zero, ne sono contento. Preferisco essere nessuno e aver talento. Parla sempre a schiover, sindel buono a me, facciamo una sfida. Verim che ne esce tramite non futi pace che te trova. Ma la menda, caso te una buona baleata se ne fui concorrente. Non so ci si che rima mia buona, tu renne, sa c'è solo capi scrivere, sa scaricata, nata bene, mezza rima, facci viaggio, poi non rap organizzata. Cerca chi ci prova, a diventa non frata. A base basilare, si de base in coppa base, sente buono per me parla, sente pure frase, non spacchi e vetrina, come Clementina, però stessa facci rima, passa in l'accendina. Datore, mo cerchi ispirazione, toro con pochi spiegazione, sto cercando, suona vincente, insieme a Vincent, preparamo, non pensa, assai convincente. Datore, cacche lirica, te metto panico, spacca pure metrica, e stanzetta produzione, ti sono un campione fra, sente buono. Tu sei sulla metto un coglione, forse ne capita niente. Che stio sound è tattore, che scemo desce c'era bella gente. Siendo buona, che la carta ricca, costanzetta produzione, noi siamo lui nemica. Se Vincent Datore Stanzetta Produzione